Buonasera. Buonasera. Io Marì. Questi sono da di campagna, sono Antonè. In campagna sì. In campagna so. Sì, da me. Ciao. A voglia, la stessa vada benissimo. Da la seconda della 4. Sto cazzo proprio dell'azione, Antonè. Lei è da poco adesso su un'azione, lo sai. Dalle nicchie, quindi. Comunque ti ascolto bene. Fanno parlare. Stanno parlando da quel fosso, Gio Maria, è un miracolo mio, lo sai dove sei tu. Sì, tanto lì. Stanno parlando da quel fosso, è un miracolo, ho detto. Sì, vabbè, miracolo, cosa vuoi fare, purtroppo? Vabbè, imparate, mettete un'antenna come si deve di lì. Anche in campagna, cosa vuol dire, caio? A me arriva anche lì molto più forte. Sì, tanto se non lo so usare in campagna, cosa... Ma cosa piazza a fare l'antenna, Antonè? Quando si dice la usi, che c'entra? Basta un'antenna piccola, non è che ci vuole un'antenna grande, non lo so. Visto, una di quelle che c'è Marino, mi, te la metti lì sopra un, non lo so, un tubo di ferro, quello che è. E adesso vediamo appena fatto il tuo volo, vai. Appena faccio il popolo, io ce l'ho l'antenna, ce l'ho a 50, dovrebbe andare bene ugualmente per il poco che la uso, capì? E piazzerò quella oggi domani. Ah, già va bene, io anche io ce l'ho l'X500, buttata qua a casa, non la sto neanche usando. L'X500 è andata a Marino e c'è benissimo, esce. Sì, se ci pensa, appena hai fatto il popolo. Un sabato sendo e me la piazza vicino alla manto, va? Tanto c'è anche la manto della 27, la piazza sullo stesso palo e va bene, vai. Sì, va bene, sì, gli metto una caffa pippetta e stai andando, e sei a posto. Sì, mi rattore vai, che me ne salgo, vai. Ho scelto andare a mangiare questi animali, adesso me ne salgo, vai. Grazie, sentiamo stasera se dia fuori, ok? Ciao a te, grazie del controllo. E di niente, non c'è problema, Gio Maria. A dopo, dai, quando vieni a casa. Ok, ciao, chiudo. E io, ciao, ciao. Ma mi senti bene? Come ti sento bene? A voglia! Ti ho mandato! Ho la foto, ti ho mandato! Oh, di quel pezzo ce l'avevo conservato! Cosa? Il raccordo! Ho capito! Qual è? Cosa hai detto? Intanto l'ho visto, già l'ho visto già! A portatele, hai attaccato quel... l'adattatore che hai messo in quel portatile, capito? Ascolta, quel GT7 tu ce l'hai. Ah, ecco, GT5, infatti. E qua, io sulla fotografia c'è GT5, infatti. Ecco, c'hai GT3 e GT5, ho capito. Io ce l'avevo. L'ho data a Luca, capito? Ehi, dottore! Come chi è? Come mi sento col microfono? No, ti sento basso, ti sento. Così basso mi sento. Basso, molto basso ti sento. Sto provando il microfono, quello palmare. Basso, a malapena riesco a... ho dovuto aumentare il volume, poi si sente poco a poco. Perché il microfono fa il mare, la mano in buco, era per provarlo. Mi senti adesso? Adesso ti sento bene. Il microfono fa il mare, era per provarlo, capito? Ma non mi piace, ne manca a me, che si intende bacio. Basso, vedi, era molto basso. Lo so, se il buon capuzzo, da. Poi la prossima. Attenta, guffetta. Ehi, dimmi con questa. Stavo mandando un messaggio ad accendere, beh, grazie. E beh, mi sembrava un pinguino con quell'abito per andare al matrimonio. Con quello devi andare. Tutto ci sta bene, ma la giacca non mi piace. Mi sa che non si usa più la giacca. Sì, si usa la giacca. Che te l'hai pagata la bisa in tutto questa giacca, ragazza? Non ci pagata 5 euro, no? Dice tu non mi è costata. Lo diceva a me, ti mandava un posto a comprarti un bell'abito. Lì al corso. E vabbè, ma quello è spezzato, capito? Lo posso usare anche con un jeans, sempre ho visto, con quella giacca, con la camicia bianca, con un paio di pantaloni, con un paio di scarpe marroncine, con i miei, e mi vedevo proprio vestito bene. Ehi, guarda che dove ci stavo, ti volevo dire io, 50 anni, sino di Bifuru, che c'è il negozio al corso. E fa anche gli abiti su misura, te lo fa, te lo cucisce lui, lì. Tu scegli la stoffa, ti fa vedere i modelli, gli dici il modello che vuoi, ti prende tutte le misure e ti fa l'abito, come lo vuoi tu. Sì, ormai è già fatto, da abbinare con i pantaloni e la camicia, no, con la camicia diciamo, perché c'ho pantaloni blu, cintola blu, giacca sul grigio è più o meno un grigio e poi vabbè la cravatta già l'ho invita, ma va bene comunque perché è spezzato, guarda mi ha vestito in 10 minuti. Aspetta un attimo, ti stavo dicendo, quello ti fa qualsiasi abito che vuoi tu puoi. Lui ti fa vedere i vestiti, no, i campioni ti fa vedere nel cataro. E tu ti scivare di là, perché lui ce lo fa, ti piglia le misure, capito? Ho capito, sai cos'è però? Che mi hanno mandato lì, io pensavo usare spesa di peso, vabbè non me la fossi una, tanto è una cosa che io domani se faccio un'uscita, non posso. Non è che ho detto che è brutta, ho detto che mi sembra a me, perlomeno, da questo matrimonio qui, che in giacchetta non veniva nessuno, ha detto che evidentemente non si usa più la giacca. Ecco, non è che ti ho detto che era brutta, ti ho detto così, pensavo che non si usasse più. Vabbè, avrei risparmiato. Non lo so, io da quello lì me ne avevo fatto fare due su misura, anche adatti per uscire, non solo per andare ai matrimoni. E mi pare che era già ancora rimunito, perché ne avevo un sacco, li ho tutti regalati. O fa cosa mi dai trinto, o fa cosa da voi mi rimaneva largo, li ho regalati. E mi sembra che mi ha ottenuto quei due. Anche con un colpetto una via, sì. Di chissà Righetti, nuovi nuovi. Sì. E gli ho dati, ma rimane appiccati qui la giornata gente di Siriboni. La giornata roba, per carità. Anche roba senza mettere, ancora col cartellino attaccato. E ne ho pure sta roba conservata così, con un pregio attaccato. No, grazie, va, che è molto, molto, molto carino, va, credi. Io sono molto difficile, quando vado a comprare, io sono molto difficile, va troppo di anche Marina. L'ho visto, sono tanta gente, dice, vabbè, ci sono quelli, ma la cravatta va bene, ma non va bene. Se sto bene io, cosa me ne frega, poi la gente, se le piace, è bene, se non le piace, non le mangia. Ma tu devi provare anche con il papillon, tu non c'hai mai cominciato a dare un papillon, capito? Vedi, il papillon si usa, è un bagliettino signifone a chi danni la vagogna, invece si usa ed è bello, è signorile il papillon, è meglio della cravatta. Se no vado dal cinese me lo compro il papillon, questa è una cazzata. Oh, ce l'hanno, boh, non ci ho mai fatto caso dal cinese. Guarda, tu mi prendi lo secondo, costa una cazzata dal cinese. E fai le prove, vedi quanto ti distingue di più della cravatta. Vabbè. Al limite, come si dice? Al limite mi faccio un salto ai cinesi, dai, già ne ho tempo, poi devo prendere anche le scarpe. Anche se ce le ho, ne ho scarpe, ma me le voglio comprare nuove, faccio tutto nuovo. Ma il papillon ti distingue di più a posto della cravatta, io avrei provato a prenderlo, te lo metti e ti guarda allo specchio e lo vedi. Sì, ma hai ragione, perché è una cosa piccolina e non è una cosa lunga, ecco. Vabbè, tanto la cravatta l'ho pagata una cazzata, 10 euro. Intendi, mio figlio ha detto che tu non devi essere più elegante dello sposo, ma la roba. Andiamo a vedere la foto, grazie. Così anche lì devo un parere, no? Visto che ci sono su Facebook. Andiamo a vedere, vediamo, sentiamo il parere suo, perché tanti mi hanno detto che vado bene. Tanti mi hanno detto, ma la cravatta, la camicia, bumba, la giacca, i pantaloni, le scarpe, insomma. Io mi vedo bene, magari le scarpe è un colore bianco, perché metto camicia bianca e abbino bene. Magari, come hai detto tu, metto un coso, un papillon. Io, aspetta, sto guardando. Comunque devo fare delle prove, grazie, se mettere la camicia con la sul violino. Ma se te li mando la foto, così la vedi meglio, perché così non è che si bene nelle foto, aspetta. E mi già l'ho trovata che su Facebook. Luca, il parere, senti. Va benissimo così. Appena sto bene, scarpe con pantalone, cravatta con giacca e camicia va bene. Va bene così, non cambiare nulla. Vedi, grazie, comunque, vedi, non è a tutti che piace. A me mi sono piaciuto subito, sono difficile con la roba, sono difficile. Mi sono piaciuto subito, cioè mi è piaciuto subito l'abito, la verità, poi è spezzato anche, lo posso usare anche con un jeans. Tu conta che io l'ho messo con un jeans, la camicia bianca, senza cravatta però così, i jeans blu, classico jeans, un paio di scarpe marroncine, ci stavo benissimo, però siccome è roba usata, ormai non è vecchia, però usata io preferisco comprare nuova e andare con la roba nuova. Lu, aspetta che mi sto bevendo il caffè. C'era Gian Maria anche, Chi è? Venga avanti. I pulpi vengano avanti. Le uccì. E dove sei, di bello? A casa. Sono rientrato adesso dalla camminata. E che camminata? A piedi. Mi sono fatta una camminata di un paio di chilometri. Già hai fatto qui, avanzato già è uscito il sole, speriamo che vi rimanghi. Ega! Lusoli! Speriamo. Mica ti ha chiamato Gian Maria, non l'hai sentito. Gian Maria! Non risponde. Attento Gian Maria, ci sei. Non rispondo, no, dai, ci sentiamo dopo che vi faccio la doccia. Ehi, chiama Antonella a fregarti le spalle. Ehi, vabbè, a dopo. Ehi, ok. Luca, caduto sì. No, grazie, sono qua, mi sto avvertendo che mi hanno chiamato per un computer. Ah, ti hanno chiamato. Ok, vai. E che è l'altro, Lemoncino, Ehi, è andato a farsi la doccia e sta chiamando Antonella a fregargli le spalle. Mi sa che Antonello gli fotta la saponetta. Ehi, quella spinosa. Oh, c'era Gian Maria e è sparito. Avanti. Ah, mi senti, grazie. Va a passaggio. 9-3, prova. Ehi. A tratti, riprova, più lungo il passaggio. 2-3, prova. Ma sono portatile quello. Non mi senti, no? Sì che ti sento, prova. Aspetta, mi senti? Sì, però un po' disturbato, riprova. Ok, 1-2-3, prova. Vabbè. Ehi, Aia, già ti sento, fai un passaggio più lungo. Ok, attenzione Graziano, mi senti? Vedi un po', cambio. Già ti sento, ma cos'è il portatile quello? Non si vede bene in foto. Si vede solo un pezzo. Infatti, quello... Un pezzo solo, ne ho visto. Non si vede nulla. Peggio male il pezzo di sì. Che Maria, che facendo c'è? Beh, è andato a fare a voto al portatile, si è perso. Io amo, prima delle 8, le 8 chiudo perché mi devo fare l'insulina, capi? E poi a quell'ora ceniamo, massimo 8:30. Ho capito. Un attimo, passare, prendo un televisore qua. Poi per quanto riguarda il televisore non ti ha fatto sapere niente, grazie. Oh, si l'avevamo fatto, si l'aveva già agitato. Ha detto, poi adesso gliel'avevi di lasciarlo e lo portate a me. Però ce l'aveva già buttato e ce l'aveva detto, vai. E allora è quello che ha visto Maria vicino al cassonetto. Infatti, ma tu c'è un televisore, è quello sicuramente. Se sono passato io non ce l'ha più. Ce l'avrà pigliato qualche d'un altro. Perché se ne staccano i pezzi, se ne staccano le schede, capito? I led, che sono buoni. E tutto il resto, gli altoparlanti. Sicuramente. Ma lì, all'uscita dove abita Marina, però sulla strada lì, c'è una Clio con i cerchi, mi sembra, c'ha tutte e due ruote, allora non so, si sono crepate o bucate, già due chiede più, ma cos'è intrancita lì? Stamattina l'ho vista, agita ancora le nocchie, una Clio. Incidentata, grazie, no, ha avuto un incidente, si è bucata la gomma, ci sto fuori strada, è incidentata, non è rubata. Io pensavo che era rubata la lampada lì, perché ho guardato da fuori, mi ha detto, non mi sono manco rigiabile, pure sarrata, strano. E si era da cagliimi che si condiziona a saltare a tirarne i ribizzi. Aspetta un attimo. Vabbè, nel caso ci sentiamo dopo, se faccio in tempo, dai, grazie. Vai, tranquillo. Bucca di travaglio, che meglio, la bucca di fare tempo, papi. Vai, tranquillo. Cavarocci. A dopo sei coincido, adesso già lo vedo. Già è bellino questo portatile, Giommari. Bene fa. Di che da Marina non si vede, questo quadrato e il pezzettino dei numeri e così lo vede, si vede tutto. E l'ho visto anche su Switch, in qualcosa dei cinesi, adesso non mi ricordo il prezzo. Vedi un po' quanto costa. Ma di lì dove sto dicendo io, 17 euro, e c'è il microfono. Ecco del microfono, l'antenna, e la beve un'altra cosa, non mi ricordo cosa è. E le cuffie, e costa 17 euro, quel boyfriend nero che c'avevo io che ho venduto. Questo l'ho visto, però non ho guardato prima. Della Zanone, così. Cos'è? Marca Zanone, e a marca ecco Zanone. Leggilo bene. Gastone. Zassone, buh. Zassone, adesso l'ho letto. Già è bellino perché c'ha il discorso. Ma cosa ne fu? Sui. Va giù l'altro, se si tratta, fa pigliare a rimunirmi chi su e tratta chi su cosa a te la bene, ma questo si me lo bei grazie a te un attimo ciao. Mari. Ehi. E beh, stai chiamando Anzula. Ma hai detto che aspetta un attimo, si chiedo che non prendi cosa. Ah, Luca e Cigno l'hanno chiamato ma un computer. Luca del Monte? Eia. Ah, non è che l'hanno chiamato un circo. Ah no, ma è da un computer. Ah, beh, ha fatto bene. Ah. Tutti questi che addassate a pezzo. Non stai andando in veloce. Alla radio quando si sta valutando in buono. Eia, eia. E beh, dottore, le bacchisio, le bello del latte dolce, tu i ciuli che faccia a faccia. Il bello del latte dolce sarà cubicando, il cubicchè è nato tutto cubicato. Poi avrai vendendo il burro bicicletti su questo burro. Nuova nuova, con tre ruotelle. Oh, a salupà, a macco sapenta. E allora, ancora non ha fatto un rodaggio questa, questa bici triciclo. Ah, giugge di sera o che sera fede? No, ha fatto l'esposizione, la vendita. Ah, è vendita. Ma non la stava vedendo lui, no? Non lo so, non mi giuro, vera. Azienda agricola, pure di agricola vendi. Moto, biciclette, macchine, un poco di tutto vendi. E allora è diventato un box, è diventato. Se ha tante attività allora ha ragione, un box è diventato. Un piccolo impresario, dai. A conto giù, se funeni, in più ci fai lavori di cubicatura, qualsiasi la cosa se la va di cubicata. Insomma, tanti lavoretti che entrano a destra, a sinistra e nasce in basso. La cosa che fate da un mese di là. E allora? Ma bene avere la banca più buona che è la giusta monta dei pasti a chi mi vuoi pure il becco dai dai e allora è così bocadina pure dai chivi Gianmari da tutto uno bisogna darsi che fa e allora tutto bisogna pure in vendita tutto se è possibile si può niente pure in vendita. E allora, poi fate tutto, pane, il pastore, il macellaio, tutto questo che ci serve, lo mandi a Edo e c'è fornito a Lampo. Va bene. Lasciamo fare. A me lo fa i soldi adesso. E allora, già ce l'ha studiato vero piano già. Poi non andiamo nel settore dell'elettricità, ma la corrente gratis. Puro. E allora, ti credi che Edo non è frutta? Edo è frutta tutto questo che si può fruttare. Ok. Stavo dicendo che la si accancellano subito quell'attrezzo, mi. L'attrezzo. Ah, quello là. Tanto è bloccato. Vabbè, ma cancella, non mandarla a nessuno. No, cosa, me ne ero pure dimenticato. Infatti ce l'ha soltanto perché non c'era il blocco da ieri, perché lo stavo provando quando l'ho provato a veste faceva. Eia. Vabbè, chi vuole entrare? Avanti. Avanti chi vuole entrare, la porta è aperta, c'è anche la finestra. Se vuoi entrare da lì. No, una gara, una gara. Oh, il marino sarà panzanaccio. Chissà tutti si, chi si sta tutto in colpo quando ci da travagliare il treno. Chi si è sotto là, Pedrubino? Quella zappa in mano, riposendosi. Cosa chi si è a panzanaccio, buffenne e surraghenni? Chi dato si sarà parato in mezzo alla baba? Andela! speriamo che non sia affabile con gas. No, no, ha detto che entrava con la bomba di ossigeno, la macchina. Allora è tranquillo, allora è tranquillo, se fa la cura bomba d'ossigeno, non fa pericolo. Ma ha detto pure che si buoni alle bigne, a chi li bari da sé in mezzo al mare, chi li. Allora pedaleggia. La pacca, ma finà. No, bucata lì sé, si è incagliata una rocca, ha detto. L'unica rocca l'ha pizzicata. Ha fatto l'affare, però ti arrocco se mi piacuti. Allora, invece che d'altro, i cani non sono puttana a passeggiare. Lei sta correndo con i cani, capito? Si mossa in bicicletta, lei ricannava al gondo ai cani, fatto i cani, capito? E allora? Ma non è che hai detto che arricano i cani, sono i cani che arricano a esso. Ah, si fosse trascinata e da ricare. E allora? Stavamo veramente in nord a polo. Capita, è più impegnata va, chi è in pensione, chi canto è la travaglienne, dove? Certo, non vorrei farlo riposanno. Tu vuoi sempre che c'hai all'ere su qua tutte le cose, per cui lo fanno lavorare. È un trucco che ha imparato la moglie, ma non si rimessa i piedi. L'impegna tutta la di. Sono sicuro che impegnerà pure la notte a regare gali. Verso mezzanotte esci. Sarò rientrerà verso le 4, faccio rientra niente. E la preghiera bisogna di andare lì. Aspetta verso l'altro. Ma chiso, torre, Marino, ci sei? Chi è? Chi è? Avanti! Chi è? Grazie! Dimmi! Attende la 27! No! Sono già 7 mesi, no, oramai no! Domani!